passione africana. Storie di persone, di donne coraggiose, determinate a cambiare il mondo nel quale vivono. Ce ne sono molte in Zambia. Una di queste porta il nome di Sifuniso. This one is called Footprints in History. It records the history of the women's movement in Zambia. Monde Sifuniso, 66 anni, una piccola donna dai capelli brizzolati, una delle grandi figure dell'emancipazione femminile in Zambia. È venuta a trovarci nel nostro albergo di Lusaka portando con sé alcune delle sue pubblicazioni. And it's Heinemann that asked for stories from African women. I submitted a story and it was accepted and published in this one. Saggi sulle donne, antologie di scritti femminili e racconti. Monde Sifuniso è una delle prime donne scrittrici del paese, la prima nello Zambia a cimentarsi con la letteratura. It is important because to start with. La questione della parità tra i sessi è importante, perché le donne non andavano a scuola, non potevano, non ne avevano il diritto. In una seconda fase hanno potuto andare a scuola, ma solo per imparare i lavori domestici. In altre parole, per diventare mogli di uomini con un certo livello educativo. Con l'indipendenza nel 1964, i lavori migliori andarono agli uomini, perché le donne non avevano potuto avere una formazione scolastica sufficiente. Per molti uomini, poi, non era accettabile avere una moglie che avesse un livello scolastico uguale o superiore a loro. And some men would say, I don't mind my wife knowing how to read and write, but she should not have the same education as me or have higher education. Monde Sifuniso ha aperto il mondo della scrittura alle donne, ma non nasconde le difficoltà oggettive in un paese che non beneficia di una grande tradizione letteraria. Sometimes I say it is not true to say we don't have a reading culture. In realtà sarebbe sbagliato dire che non abbiamo una cultura favorevole alla lettura. Ho studiato questo argomento e mi sono resa conto che la gente legge, ma quasi unicamente libri religiosi. Malattie e povertà portano la gente alla religione. Se viaggia in bus si accorgerà che la gente legge, ma solo libri religiosi o libri che servono a preparare degli esami. Non bisogna dimenticare poi che i libri costano e molti non possono permettersi quello che appare come un lusso. They don't have the kind of salaries that give them the luxury to have a library. Can we say that ritorniamo alla sua professione, alla sua passione, la scrittura. Lei crede che ci sia un modo femminile di scrivere? Oppure si scrive nello stesso modo, magari solo con contenuti un po' diversi? Would that be correct? There's only one story that I had written that as a man. Ho solo scritto una storia come l'avrebbe scritta un uomo, altrimenti scrivo come una donna. Il fatto è che le donne scrivono in modo diverso perché le donne vedono le cose in modo diverso dagli uomini. Nei miei libri gli uomini appaiono in un certo qual modo sempre più piccoli delle donne. Secondo me, gli uomini in realtà hanno paura delle donne. Ma that is actually the way I feel. I do feel that men put on this macho thing because they are scared of women. I was privileged to go and study film in South Africa. I think I must say I'm the first woman director in the country. And when I was there, what I saw. Catherine Musola Kasekete ci racconta la sua esperienza. Anche lei è la prima donna in un campo artistico, quello dei film. È la prima regista del paese. I have directed, written and co-produced the film Sui. Ho diretto e coprodotto Sui, significa faccia. That talks about two young persons, racconta di due donne, una che ritorna alla vita dopo un terribile incidente automobilistico e l'altra che, dopo la morte dei genitori uccisi dall'AIDS, ci conduce nella vita di strada. This film, according to what I have heard, la critica lo considera uno dei migliori film realizzati in questo paese e ha ottenuto 7 riconoscimenti all'estero, recentemente a Rotterdam e in Canada. È un film che è diventato una sorta di ambasciatore del mio paese, lo Zambia, e sono felice che grazie a questa pellicola la gente si accorge che anche qui stiamo producendo dei film. Even in Zambia, there are filmmakers who are trying to make something. Sui è una storia in gran parte autobiografica. Catherine Musola Kasekete è in effetti seriamente handicappata.